de rien. Non, je ne regrette rien. La virgola di Elisabetta. Ciao a tutte. Legame di sangue. Il procedimento scientifico sperimentale ci ha portate fuori ormai da tempo dall'Ipse-Dixit ed è stato un contributo fondamentale che la rivoluzione borghese ha fornito ai processi di liberazione. Il conseguente concetto di progresso scientifico è stato assimilato al miglioramento delle condizioni di vita dell'umanità e ha pervaso l'esperienza e i concetti informativi della sinistra, sia riformista che di classe. Ma la scienza, come qualsiasi altra cosa, non è asettica, non è neutra, non è imparziale. Può essere piegata a seconda delle esigenze, a questo o a quel risultato, può essere usata per questo o quell'obiettivo e addirittura il tipo di ricerca effettuato è dovuto a questo o a quell'interesse, a questo o quell'indirizzo di mercato. La borghesia si è resa conto molto presto delle potenzialità insite nella scienza come strumento di controllo, indirizzo e uso delle coscienze dei corpi e delle potenzialità economiche, di mercato, di sfruttamento, di profitto, e ha stretto con la scienza un legame di sangue. A seconda quindi delle necessità, il sistema di potere usa la scienza come strumento di manipolazione con la disponibilità e la collaborazione dei vari livelli di specialisti. E infatti la cosiddetta sinistra riformista continua a presentare scienza, progressi scientifici e tecnologie associate come strumenti di progresso dell'umanità, ben conscia che attraverso tutto ciò può condizionare ed usare le coscienze e i corpi. Cosa significa tutto questo nella configurazione attuale neoliberista della società? Significa medicalizzazione delle esistenze, in modo che nessuna e nessuno possa decidere da solo e da sola, ma ritenga necessario affidarsi ad un esperto. Significa controllo della salute, tra virgolette, in funzione delle esigenze economiche di profitto, sia direttamente con l'induzione ai medicinali, in particolare a uno piuttosto che un altro, a screening ricorrenti, alla prevenzione di tutto e del contrario di tutto, giocando sulla paura dei soggetti nei confronti della malattia, sia indirettamente dettando regole scientificamente provate di ogni tipo. Poi per controllare il lavoro, la produttività, perfino il riposo e il tempo libero. Il sonnellino pomeridiano fa bene, si può fare in ufficio così si rende di più. Lavorare fa vivere più a lungo, lo stress esalta le doti personali, si deve fare palestra, dormire, anzi no, non troppo, niente alcol, niente fumo, niente discoteca, mangiare cibi bio, l'industria del bio va alla grande. Poi significa controllo della fertilità e quindi delle donne, con la riproposizione della naturalità, tra virgolette, della maternità, della naturalità degli istinti di disponibilità e di cura, ma anche con la contraccezione mirata e indirizzata. L'aborto è sempre un trauma, è meglio, molto meglio la pillola, è di una marca particolare, guarda caso. Niente figli è una donna non realizzata, tanti figli è una coniglia, non riflette su quello che fa. Due è il numero giusto, che diamine, lo dice uno studio scientifico in proposito. Chiaramente fanno parte di questo ambito tutte le teorie rigorosamente scientifiche secondo le quali il cervello delle donne ha zone istintuali diverse da quelle maschili. Alcune zone del cervello poi sono responsabili, sarebbero responsabili delle devianze sia sessuali che comportamentali. È particolarmente importante per il sistema incasellare le persone in ruoli prestabiliti, in modo che le reazioni siano controllabili e le cosiddette devianze facilmente etichettabili, riconducibili e sanzionabili. Attente, noi femministe abbiamo qualche lobo del cervello a pallini. Allo stesso tempo significa incentivazione delle pratiche di sperimentazione sugli embrioni, sulla fecondazione assistita, che lungi dall'essere a tutela delle scelte e dei desideri di ognuna, come dovrebbe essere, sono strumenti per controllare la nostra fecondità e medicalizzarla il più possibile. La stessa RU486 da una parte viene demonizzata, dall'altra deve essere soggetta a controllo diretto con l'ospedalizzazione della donna, dall'altra ancora può essere data solo previa constatazione dell'equilibrio mentale della donna stessa. Tutte queste posizioni prevedono comunque un nulla osta nei nostri confronti. Poi significa controllo delle menti, con la ricerca delle zone del cervello da manipolare per ottenere individui asserviti. La ribellione non sarebbe dovuta all'ingiustizia che subiamo, ma a qualche meccanismo del nostro cervello che non va bene. Se poi siamo rivoluzionari organizzate, allora addirittura ci lobotomizzeranno. A proposito, a quando il test per definire scientificamente sempre se possiamo o no fare un figlio o una figlia, o per definire se siamo madri affidabili? E il nostro partner potrà esigere il test per riprendersi il figlio o la figlia? Significa ancora sperimentazione sugli embrioni, studi sul DNA, clonazione degli organi e dei tessuti. Per carità, la motivazione è sempre nobilissima, si cureranno tante malattie. Ma in verità l'essere umano non ha mai smesso di cercare nuovi schiavi. A quando la creazione dei replicanti? A quando i dibattiti della sinistra riformista su quanti e quali diritti potranno avere? O i dibattiti della destra e della Chiesa sulla possibilità che abbiano o no l'anima? E poi significa controllo sulla morte. Già adesso il sistema ha deciso quando siamo morte e quando siamo vive, con la legge sulla fittizia morte cerebrale, e quando possiamo essere fatti a pezzetti, con la legge sugli espianti e trapianti. Come al solito, la motivazione è nobilissima, salvare altri esseri umani, ma la verità è la pretesa di usare i nostri corpi a seconda delle esigenze della sperimentazione del mercato. Si aprono scenari inquietanti addirittura sulla possibilità di venire conservate e messe da parte per ogni evenienza. Ma morte, vive, semimorte, semivive, lo deciderà una legge. Mi astengo chiaramente dal sottolineare che questa società è divisa in classi, è divisa in ricchi e poveri, in oppressi e oppressori, e quindi l'uso e il consumo delle leggi è appannaggio di alcune e di alcuni a danno di altri e di altri. Ma da femministe abbiamo ben chiaro che noi donne siamo soggetti ad altissimo rischio e che soltanto noi possiamo decidere delle nostre sorti e della nostra vita. Non deleghiamo niente, ma proprio niente, a nessuno e a nessuna. Ciao!